mano di Al-Qaeda, secondo la TV siriana. Volano stracci tra Francia e Turchia dopo il sì alla legge sul genocidio degli armeni. Il premier turco Erdogan contrattacca ricordando a Parigi i morti in Algeria nel periodo coloniale. Ferme le retribuzioni a novembre, più 1,5% su base annua, il divario salari-prezzi a livello record dal 1997. Calcio scommesse, oggi l'interrogatorio di Doni. Mi sento come se fossi finito sotto un treno, dice il giocatore pulito Farina, convocato in nazionale. Parleremo di tutto questo tra pochissimo nella nostra edizione delle 13 di GR24, ma partiamo dalla politica, dall'ultimo atto prima della pausa natalizia. Questa mattina il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, il decreto mille proroghe. Vincenzo Miglietta, Vincenzo. Sì, buongiorno. Incassata la fiducia sulla manovra, appuntamento oggi del governo con il tradizionale decreto di fine anno detto mille proroghe, nome che tuttavia non piace al premier Monti, sia per motivi scaramantici, spiegano dal tesoro, sia perché sarà un testo asciutto di pochi punti. A questo si affianca anche un provvedimento di proroga delle missioni internazionali. All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri c'è anche la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 2010 ed alcuni obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Quanto al mille proroghe, le principali riguardano gli sfratti, la cui esecuzione, ma solo per alcune categorie, viene spostata al 31 dicembre 2012, le assunzioni poi nella pubblica amministrazione già autorizzate o in via di autorizzazione potranno essere fatte fino al dicembre del prossimo anno. Viene anche prorogata la sperimentazione della social card, sempre per tutto il 2012, e vengono previsti altri 12 mesi per l'inserimento delle impronte digitali sulle carte d'identità. Infine, il decreto in questione dispone il prestito di 23 miliardi e 480 milioni di euro della Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale, dando seguito così a quanto deciso con il vertice dei capi di Stato e di Governo del 9 dicembre con la riunione dei ministri dell'Eurogruppo di metà mese. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E prima del Consiglio dei Ministri, il Presidente Monti oggi ha visto il segretario del PDL, Angelino Alfano. Dalle liberalizzazioni al mercato del lavoro si apre la fase 2, quella che dopo la manovra di consolidamento fiscale dovrà mettere le basi per la crescita. E per questo il Premier convoca i partiti che sostengono il governo. Questa mattina incontro di oltre un'ora con il segretario del PDL Alfano. Un vertice prenatalizio e post manovra lo ha definito quest'ultimo, in cui abbiamo chiesto un confronto al governo per stimolare la crescita e far sentire più forte la voce dell'Italia in Europa. Con Alfano presenti il capogruppo del Senato Gaspardi e della Camera Cicchetti. In primo luogo è indispensabile che il governo ci fornisca la sua agenda di medio periodo. In secondo luogo dobbiamo aprire una fase successiva che riguarda la crescita, ed è in questa fase anche che può essere collocato tutto il discorso sull'articolo 18. In terzo luogo poi abbiamo intenzione di definire delle nostre proposte per quello che riguardano le liberalizzazioni e le privatizzazioni, perché finora ci sembra che la tematica affrontata è stata abbastanza asfittica. Questo pomeriggio Monti vedrà il leader dell'UDC Casini e dell'API Rotelli, mentre l'altro ieri aveva già incontrato l'ex premier Berlusconi e il segretario del PD Bersani. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Crollo della fiducia dei consumatori e aumento di stipendi più contenuto rispetto all'inflazione. Sono questi i dati che l'Istat ha comunicato poche ore fa. A novembre le retribuzioni di chi ha la fortuna di avere un contratto di lavoro sono cresciute rispetto allo scorso anno dell'1,5%. Peccato che nello stesso periodo la corsa dei prezzi, l'inflazione cioè, cresce del 3,3%, il che porta la differenza tra questi due aumenti all'1,8%, quindi cresce la quota di soldi che esce dalle nostre tasche. Il dato conferma altri indicatori diffusi negli ultimi mesi ed è il più elevato dal 1997. A proposito di contratti, l'Istat fa il punto della situazione. Quasi un terzo è in attesa di rinnovo, sono 30 accordi contrattuali che interessano 4,1 milioni di dipendenti. Il quadro di fine anno si completa con l'indice del clima di fiducia dei consumatori, che scende a dicembre da 96,1 a 91,6. Anche in questo caso l'Istat ricorda che siamo tornati a livelli dello scorso millennio, una fiducia così bassa non si vedeva dal 1996. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto le borse si mantengono in territorio positivo, Fuzimib più 0,58% in questo momento. Noi ci spostiamo all'estero, tra pochissimo andremo in Siria per la notizia che avete sentito anche nei nostri titoli. Adesso però parliamo ancora di governo, ma ci spostiamo in Spagna, un governo compatto di crisi, di soli 13 ministri, con il braccio destro Soraya di Santa Maria nel ruolo di numero 2 vice premier, ministro della presidenza e portavoce del governo. Siamo in Spagna. 40 anni, donne, per di più madre da un mese. Lei si chiama Soraya Sáenz de Santa Maria ed è l'ultima passione della Spagna. Segno dei tempi di un paese che negli ultimi anni è cambiato davvero molto. Se è vero, come lo è, che Soraya non è ammirata perché moglie o madre devota, ma è l'uomo di ferro del neogoverno Rajoy. Governo che pure ha sconfitto i socialisti in nome di un ritorno alle tradizioni. Ma Rajoy, che ha sì ridotto la presenza femminile nell'esecutivo, ha sì aumentato l'età media dei suoi ministri, ha scelto lei, quarantenne e fresca mamma, come vicepresidente e suo portavoce. La stampa spagnola si scatena cantando l'addio alla dolce donna latina e al riposo postpartum. Per gli spagnoli è la prima volta di una donna in un ruolo che conta davvero. Sarà da vedere se l'entusiasmo durerà dopo la passione iniziale. Tanto più che potrebbe arrivare presto un'altra prima volta, con il via libera alla nomina a sindaco di Madrid di Anna Botella, moglie dell'ex premier Aznar. Anche questo per la Spagna. Un debutto al femminile. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito nei nostri titoli, anche oggi vi raccontiamo una giornata di attentati e di vittime in Siria. Accanto a me c'è, e lo ringrazio, Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Roberto, allora, a che punto siamo della crisi siriana? Ha agito Al-Qaeda oggi in questo attentato sanguinoso, oppure c'è un'opposizione troppo forte del paese? Com'è la situazione? Beh, è difficilissimo da dirlo, anche perché il regime siriano è impenetrabile, dispone di un apparato di sicurezza immane, ha chiuso le frontiere ai giornalisti, noi stessi abbiamo cercato di entrare qualche mese fa, non ci siamo riusciti. Fa comodo al regime accusare Al-Qaeda, però molte volte il regime di Damasco definisce terroristi di Al-Qaeda l'opposizione siriana, che è una costellazione, un universo di diversi gruppi, per quanto siano sunniti. È ancora molto presto. L'opposizione dice che sia stato addirittura il governo siriano a piazzare le bombe, forse è un'esagerazione, per cercare di indurire la sua risposta nel giorno in cui sono arrivati gli osservatori della Lega Araba ieri pomeriggio per mettere in atto il piano della Lega Araba, che prevede anche una sorta di cessato il fuoco e il ritiro dell'esercito. È una situazione molto critica, siamo arrivati comunque a un punto di svolta. L'opposizione in ogni caso siriana è forte e anche armata, perché sono sempre più i disertori dell'esercito che abbandonano un esercito ancora fortissimo per passare dai ribelli. Roberto, ma possiamo dunque definirla una crisi interna, oppure c'è una lotta tra potenze regionali per il futuro assetto del paese, un po' come sta accadendo in Iraq, dove comunque ieri insomma è accaduto qualcosa di simile? Esattamente. È la seconda risposta, forse la più azzeccata, perché la Siria da un punto di vista geopolitico, geostrategico, è importantissima. Lì è in gioco il futuro del Golfo, petrolio, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq. La Siria è un paese retto da un regime, una minoranza alawita, si definiscono sciiti, duodecimani, comunque alleati di Iran. La Siria costituisce il ponte per l'Iran sul Mediterraneo, perché mette in contatto gli sciiti libanesi di Hezbollah con l'Iran. Però la Siria è anche un paese a maggioranza sunnita, e l'Arabia Saudita a questo punto ha abbandonato le sue posizioni di prudenza, così come la Turchia, per intimare ad Assad di andare di in certo modo a sostenere la rivolta. Insomma, il futuro, la Siria è terreno di scontro tra potenze rivali, si gioca la leadership, si sceglierà chi sarà la potenza regionale, e a questo punto il 2012 non promette nulla di buono per questo paese. Grazie a Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore per questi chiarimenti. E noi parliamo dell'allarme per le protesi al seno cancerogene. In Francia il governo consiglia la rimozione cautelativa, in Italia il ministro della Salute Balduzzi rassicura, ma convoca già per oggi il gruppo di lavoro permanente per monitorare la situazione. Rimozione della protesi anche in assenza di segni di deterioramento. È la raccomandazione che il governo francese fa a tutte le donne, sono circa 30.000, alle quali è stata impiantata una protesi mammaria di tipo PEP. Protesi finita sotto accusa per gli 8 casi di tumore denunciati, di cui 2 mortali. Una raccomandazione a titolo preventivo e senza carattere d'urgenza, ha detto il ministro della Sanità Bertrand. Nessun rischio aumentato di cancro, ha specificato, tuttavia in caso di rottura più probabile nelle protesi fabbricate con un silicone non conforme, possono verificarsi reazioni infiammatorie che rendono difficile l'espianto e in certi casi tumore. E mentre l'allerta si estende a Gran Bretagna, Spagna e America Latina, in Italia, dove il ministro della Salute Balduzzi ribadisce nessun allarmismo, è stato convocato per questo pomeriggio il gruppo di lavoro permanente per monitorare la situazione e fornire tutte le informazioni utili. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'inchiesta sul calcio scommesse, sarebbero molte altre le partite truccate e i giocatori coinvolti nello scandalo su cui indaga la Procura di Cremona, e proseguono gli interrogatori. È il giorno di Cristiano Doni nell'inchiesta sul calcio scommesse. L'ex capitano dell'Atalanta, arrestato lunedì, sarà sentito nel pomeriggio dal GIP di Cremona. Secondo gli inquirenti, Doni avrebbe continuato a truccare partite e inquinare le prove nonostante la squalifica di 3 anni che gli era stata comminata dalla giustizia sportiva. Ieri il calciatore è stato visitato in carcere da 2 parlamentari bergamaschi tifosi dell'Atalanta, che lo hanno descritto come molto provato dai 4 giorni passati in cella. Sempre ieri gli inquirenti hanno sentito Carlo Gervasoni. Il calciatore di Albino Leffe, Mantova e Piacenza avrebbe ammesso l'esistenza di partite combinate in Serie B e Lega Pro. Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere Gigi Sartor. Nel frattempo il commissario tecnico della Nazionale, Prandelli, ha deciso di convocare Simone Farina, il giocatore del Gubbio che ha rifiutato 200.000 euro per truccare il match di Coppa Italia col Cesena e denunciato poi ai magistrati il tentativo di corruzione. A febbraio Farina si allenerà con gli azzurri a Coverciano prima dell'amichevole con gli Stati Uniti. È un premio in nome del calcio pulito ad un uomo che ha dimostrato coraggio, ha spiegato Prandelli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'importante è salvare il lavoro, è andato agli operai di Fincantieri di Sestri Ponente. Il pensiero oggi del presidente della CEI, arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, in occasione del tradizionale augurio natalizio ai genovesi. E anche dopo l'annuncio delle Ferrovie dello Stato che assicurano il riassorbimento dei lavoratori, restano in cima al cantiere della sede dell'Intesa San Paolo a Torino i lavoratori della Vagolì, che rappresentano tutti coloro che lavorano sui treni di notte e che dall'11 dicembre non esistono più. 3 hanno dormito anche questa notte sul tetto, altri colleghi invece sono rimasti nel presidio alla base. Fra questi Orazio Arrigo, sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Fermo restando che è soltanto un comunicato e comunque non una cosa ufficiale, un accordo, ci sono molte cose oscure che ci sono scritte praticamente su questo comunicato, che spero che oggi vengano magari messe in chiaro. Quali sono questi punti? Non ci viene chiara la cosa che si impegnano a ricollocarci probabilmente con dei contratti part-time. Questo vorrei capire io che tipo di lavoro è, cioè io a tempo indeterminato full time vado a lavorare a part time magari a 500-600 euro, non penso che sia una soluzione a un problema per un padre di famiglia, qua perché non parliamo di ragazzi all'inizio della carriera lavorativa soltanto, qua parliamo di famiglie, poi lì vediamo dei numeri che facendo la somma ci accorgiamo che scompaiono improvvisamente 191 lavoratori. Perché dici oggi? Oggi c'è un tavolo, avete un incontro? Noi attualmente non abbiamo notizie di che ci siano dei tavoli, però l'esperienza mi porta a pensare che dopo un comunicato stampa che è ufficioso, le chiacchiere vengono messe a verbale, giusto? E allora i verbali si fanno nei tavoli con le giuste persone. Voi avete inviato un videomessaggio al ministro Passera, vi ha fatto sapere qualcosa? Attualmente oggi il ministro non siamo stati contattati, questo non è un problema, questo non vuol dire che magari il ministro non sia intervenuto personalmente, perché magari ha cercato di risolvere la situazione magari in altre sedi. Le 13:17 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dell'attentato, delle decine di vittime oggi in Siria per un doppio attacco contro basi della sicurezza siriana ad opera di kamikaze. Secondo la televisione di Stato c'è la mano di Al-Qaeda. Tra pochissimo parleremo delle forti tensioni che restano ancora tra Francia e Turchia dopo il sì alla legge sul genocidio degli armeni. Il premier Erdogan contrattacca ricordando a Parigi i morti in Algeria nel periodo coloniale. Abbiamo parlato anche di dati economici, ferme le retribuzioni a novembre, più 1,5% su base annua, il divario salari prezzi a livello record dal 97. E abbiamo parlato anche di calcio scommesse, dell'interrogatorio oggi di Doni. Mi sento, ha detto, come se fossi finito sotto un treno. Adesso, come detto, ripartiamo dalle tensioni diplomatiche tra Francia e Turchia dopo il voto di ieri a Parigi sui genocidi. Lo ringrazio, accanto a me c'è Gigi Donelli. Gigi. Sì, buongiorno Narita e un saluto agli ascoltatori. Tensioni che restano, anzi possiamo già anticipare che il 2012 sarà un anno in cui questo tema tornerà periodicamente, perché lo dico, il secondo semestre del 2012 è prevista la presidenza cipriota, presidenza di turno dell'Unione Europea. Bene, è uno dei temi delicati, sensibili, chiamiamo come crediamo, dei rapporti appunto tra Ankara e l'Europa. Ecco, per quanto riguarda invece il nostro soggetto specifico, botta e risposta, come hai detto, Erdogan rinfaccia in sostanza le operazioni militari in Algeria, dice altro che gli armeni, quello è stato un genocidio, e Sarkozy proprio poco fa da Praga, dove partecipa alle esequie solenni per Vaclav Havel, dice, invita la Turchia a contenersi e a rispettare il punto di vista dei francesi sulla storia. Peraltro forse vale la pena ricordare che cosa significhi genocidio, perché quantomeno secondo la definizione adottata dall'ONU si parla di atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, cosa che al di là di tutto la storia francese in Algeria non può in nessun modo rifarsi, per la storia, proprio per la natura dei rapporti tra Francia ed Algeria. Insomma, comunque una situazione ad alta tensione. Tu hai detto ne continueremo a parlare, e visti i toni questo è inevitabile. È inevitabile. Però perché proprio ieri è stata approvata questa legge? Dunque, questa legge, bisogna dire, questa legge che è stata approvata in prima lettura, che dovrà, ed è qui appunto per questo ne continueremo a parlare, dovrà essere approvata entro il semestre bianco, lo scioglimento della Camera in Francia, che riguarda le elezioni. Morale, entro 2 mesi e mezzo questa legge o viene approvata o riprende quel percorso che ormai da anni sta facendo, perché appunto è una legge controversa. Tra l'altro segnalo che proprio all'interno dei blog francesi c'è un dibattito estremamente animato. Qualcuno dice, per esempio, francese, dice questa legge inutile ci farà perdere 15.000 posti di lavoro. Insomma, ci sono dei temi economici molto forti. Altri naturalmente ritengono sia inaccettabile la reazione da parte della Turchia. L'accusa di Erdogan su questo punto è molto precisa: questa legge, secondo i turchi, emerge ora perché Sarkozy ha bisogno, diciamo, di una sponda a destra, di una chiave antiturca. Naturalmente il presidente, che peraltro non è l'iniziatore di questo procedimento di legge, dice è una giustificazione assolutamente insostenibile. Grazie Gigi, dunque staremo a vedere. Lo citavi anche tu, a Praga sono in corso i funerali dell'ex presidente ceco Havel, morto il 18 dicembre scorso. Molti capi di Stato e i politici stranieri che stanno assistendo alla cerimonia. Per l'Italia c'è il presidente della Camera Fini, è arrivato anche un messaggio del Papa. E 20 anni fa, il crollo dell'URSS. Sentiamo. Il giorno di Natale del 1991, Mikhail Gorbaciov annunciò in televisione le dimissioni, mentre sul Cremlino veniva ammainata la bandiera dell'Unione Sovietica. La liberalizzazione politica ed economica dell'ultimo presidente dell'URSS gli era sfuggita di mano, prendendo più spazio di quanto Gorbaciov avesse voluto concedere. Aveva sperato di poter riformare il comunismo e il sistema sovietico, ma nel suo messaggio di addio si attribuì il merito di lasciare alla Russia, erede dell'URSS, libere elezioni, libera stampa e libera impresa e un sistema pluripartitico. 20 anni dopo, domani, alla vigilia di Natale, un fronte eterogeneo di cittadini russi tornerà a manifestare a Mosca. Saranno di nuovo decine di migliaia. Molti di loro non hanno neppure conosciuto l'URSS, ma sentono di dover lottare ancora per un sistema politico più aperto. Sono figli di un paese per molti versi migliore. È sbagliato non tenere conto di quanto sia cresciuta la Russia negli anni di Vladimir Putin. Ma la reazione del futuro presidente nei confronti della protesta finora è stata quasi di disinteresse e resta al rischio di una repressione delle manifestazioni se sfuggiranno di mano. Domani, sulla prospettiva Sakharov, ci sarà anche Gorbaciov. Per le critiche e l'ironia usata da Putin nei confronti dei dimostranti, Gorbaciov ha detto di provare vergogna. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. La regione Lombardia ha inviato 780.000 avvisi di pagamento per evasione del bollo auto nel 2008 a contribuenti lombardi, colpendo però, secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, anche molti contribuenti onesti che avevano pagato regolarmente il bollo e che ora dovranno presentare una memoria difensiva e che comunque dovranno essere in grado di esibire la ricevuta del pagamento relativo al 2008. Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, fa una proposta. Basterebbe esporre il bollo. Fermo restando che la lotta all'evasione è assolutamente importante, soprattutto in questo momento, la nostra posizione è quando ci sono casi come questo in cui ci sono cartelle pazze, cioè cartelle che vengono inviate a contribuenti che in effetti hanno pagato le imposte, non può che essere negativa come quella di tutti, perché lo Stato, ma anche le regioni, anche tutti gli enti che procedono alla riscossione dei tributi, dovrebbero essere in grado di sapere con certezza se il contribuente ha pagato o no, e se non ha pagato dovrebbero contestare il mancato pagamento in termini di tempo brevi, se non brevissimi. E quindi che cosa proponete? C'era fino al 1997, è stato abolito dal 1 gennaio 98, un sistema molto semplice. Si apponeva a fianco al certificato di assicurazione una vignetta, lo ricorderanno in moltissimi, penso, che certificava il pagamento del bollo e anche riportava gli estremi del pagamento e i termini di validità del bollo pagato. Poi le società di noleggio hanno obiettato che era molto difficile per loro far pervenire questo certificato di pagamento, volgarmente detto bollo, in tempi utili alle auto che avevano disperse in tutto il territorio nazionale, così lo Stato ha deciso il 1 gennaio 1998 di eliminare l'obbligo di apporre la ricevuta dietro il parabrezza dell'automobile, però ha lasciato lo stesso obbligo per il certificato di assicurazione. 5 falsi cechi sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato a Pescara. Risultavano affetti da cecità assoluta, ma passeggiavano tranquillamente per la città, si districavano con disinvoltura nel traffico, prendevano gli autobus riconoscendo nelle corse. Uno dei 5 durante un pedinamento è stato sorpreso a leggere un certificato appena ritirato alla ASL. E adesso noi parliamo del tradizionale appuntamento quotidiano con l'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Si dice IVA lavata e per gli evasori è il nome di un meccanismo per fare soldi acquistando prodotti senza IVA, appunto perché provenienti da paesi dell'Unione Europea e poi dimenticandosi del tutto di questa imposta quando si vendono. Un'amnesia diffusa che frutta addirittura milioni di euro e mette fuori mercato gli operatori onesti, i quali, applicando la corretta imposta, sono costretti a vendere il prodotto ad un prezzo maggiore. È il caso di una serie di società fittizie che tra il 2008 e 2011 emettevano migliaia di fatture false relative a prodotti elettronici, appunto acquistati senza IVA, in quanto provenienti da paesi dell'Unione Europea e poi ceduti ad operatori nazionali senza che venisse ricaricata l'imposta come stabilito dalla legge. I risultati di questa amnesia, oltre a una colossale evasione fiscale di oltre 300 milioni di euro, l'emissione di fatture false per 184 milioni di euro e anche una truffa da 6 milioni di euro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Erano anni che la Domus di Loreio Tiburtino era stata inserita nella lista delle case che avevano bisogno di restauro urgente a Pompei, non a torto visto il crollo di ieri, eppure i soldi si potrebbero trovare, ne è convinto Salvatore Setti, archeologo e storico dell'arte. La mancanza di fondi è una mancanza che è dovuta alla cattiva amministrazione. Se noi pensiamo che ci sono ogni anno 120 miliardi di tasse non pagate dagli italiani, si capisce immediatamente che i soldi ci sono. Questi famosi fondi UE che dovrebbero arrivare a dare una mano? Mi piaceva di più l'Italia di 15 anni fa, quando si lavorava per ridurre la pendenza della Torre di Pisa che minacciava il crollo. Io facevo parte della commissione e quando dal Giappone arrivò l'offerta di pagare i fondi, il governo italiano rispose no, la Torre di Pisa è noi, paga lo Stato. In chiusura parliamo di televisione, il secondo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti, trasmessa ieri sera su Rai 1, ha stravinto il prime time con oltre 5.200.000 telespettatori. Protagonista della serie, Suor Angela, una religiosa con un passato burrascoso che ha il vizio delle indagini. Suor Angela è interpretata da Elena Sofia Ricci, l'ha intervistata Adriana Fracchia. l'impegno è stato grande, la sfida è immensa, perché quello che proprio non volevo era di raccontare lo stereotipo di una donna di chiesa, no? Un po' come siamo abituati a vedere, ecco, lo stereotipo lo temevo tantissimo e anche temevo la retorica, queste sono cose che proprio alle quali io sono allergica, quindi speravo e volevo che questa suora Angela fosse un po' quella suora che avrei voluto incontrare nella mia vita e che fosse estremamente umana e anche simpatica, ma anche fortemente spirituale. Sai, in questa epoca così siamo veramente allo sbando, no? Siamo in un momento molto difficile nella nostra Italia e credo che ci sia bisogno di rimettersi in contatto con la propria parte spirituale, con la propria parte anche morale, no? E in un'epoca in cui cioè, ognuno ha fatto un po' il furbetto, siamo stati un po' tutti disattenti, non ci siamo presi cura del paese, ci siamo presi cura più che altro un po' di noi stessi, del nostro orticello, e invece forse c'è bisogno appunto di ritrovarsi un po' in una dimensione un po' più alta, e per questo credo che la serie abbia anche molto successo. È tutto per questa edizione curata da Maria Piera Ceci, grazie regia Fabio Cantadori, vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR 24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.